nascita dolorosa del futuro, la figlia dolore di Auschwitz compiuta, l'avvento di un riuscito in attività sofferenza. Hanno guardato la società la sofferenza, con il mio metro e la testa. Dare cosa che si resta, dopo si può essere un'altra. Per fortuna, per la... E beh, ma ce n'è su. Anche voi, Gianni. Ah, la visita allora. Dopo tanz'ora ai nodi. Ma si tende dietro a qualcuno. Ecco, io ho il baracchino, sono la passione. Ma ci sei bruciando? Perché avevo sullo stesso camera da Caparicchi, non me ne raccolgo. Ma bella dai ciuga. Che c'è buono a frusciare. E io eravamo tutti sul 10 perché non si vede. Ma che non è vero? Ci vede stato entrato. Allora mi sono accomodato, mi intendi? Perché sono lontano. Scusate se ti sento, è bene pure. E sono lontano dall'apparato, sono un braccio lungo, un braccio lontano, so. E mi stavo cantando se adesso. E quindi ho mollato adesso perché ho messo il telefono in carica che si è caricato, capita di cantare. E poi sono venuto qua. Hai fatto bene. Hai fatto bene, così ti riposi un poco. Ma infatti, no, a me il canto a me piace, mi rilassa, mi stacco la spina. Quando canto io non penso a nulla. E fai me pensare a cantare, ti credo. Ciao Verdessi. E mi concentro. E mi fa dimenticare tutto, dolori e quanto c'è. A vero, eh? Guarda, è una medicina il canto. È bello, bello cantare, se non piace. E infatti è così. Toglie tutti i pensieri, ti toglie quando sei cantando. A me non mi basta a cantare solo in casa, io so, ma guardo sempre i locali a cantare al karaoke. Io da te, ti fai voce bella. Già è bello, là. È bello, ti diverti, stai in compagnia, roba di niente, cose, vedi un po' di gente, tutta la settimana in casa, più che andare a fare la spesa, portare il cane, non lo faccio, lui, e non mi muovo. Allora mi accusava dopo su qualche cosa. Infatti, io ogni tanto anche il sabato, però se lo faccio a pranzo, non a... almeno a caroccare a mangiare. No, ma io vado proprio perché c'è il caroccare, a me di mangiare non me la butti nulla. Vado perché c'è il caroccare che mi diverto a cantare. Mi serve, mi ascolto gli altri che cantano, canto anch'io qualche canzone, così mi diverto. Non è solo per mangiare, anche a mangiare, quello di brusso di mangiare una pizza, patatine e calamari, roba così, non è che mangi chissà cosa. Sei contenti, però almeno sei in compagnia. Sì, c'è un problema. Ti chiedo mangi un buon apparato di bicio. Vabbè. Una volta alla settimana si può fare, non dico tutti i giorni, ma una volta alla settimana va bene, almeno ti rilassi un po', dai. Sì, sì, infatti. Infatti così. Lo salito io a lunedì al centro diabetico. Adesso devo telefonare al CUPU che ho l'impegnativo, devo telefonare al CUPU domani per fare chiedere una dottoressa, fa darmi le cose per avere il posto con una dottoressa. No, io domani devo andare a fare la visita agli occhi, devo fare food zucculo. Ma lo questo deve andare a fare passare la visita per il diabete, il diabetologo. Sì, me l'ha ordinato il diabetologo, ogni anno lo faccio, no? La visita a food zucchero per vedere se c'è il distacco della retina, tutte queste cose qua. Ma grazie a Dio che come. Infatti, chi suoi? No, io sono 2 anni che non faccio più nulla. Infatti, domani mattina, prima al cardiologo e poi l'appuntamento a settembre. E poi lo l'appuntamento, fammi dare l'appuntamento per qualche dottoressa. Se c'è. Ma scusa, non è meglio che tu vada lì da fare questa cosa qua. Ma non ho detto di telefonare. Ecco cos'è. Oh, sono 90, salgo giovedì. Salgo direttamente a coso, al mio tempio. Salgo, a cupo. Ho fatto tutto campo. Ti conviene lì. Se si poteva fare in farmacia, ma gli specialisti mi pare che non li fanno, fanno solo i medici di base. No, non ne fanno. Ha detto, chiamare. Ha detto di chiamare al gruppo, dire che sono in assistenza sua a Rizzedu. Ma ha detto che sono. E di chiedere se c'è qualche dottoressa disponibile per passare la visita. Ma vai direttamente a San Camillo che te lo fanno, che sono andato a San Camillo, te l'ho preso a Camillo e, no, e c'è il parcheggio e tutto lì, a San Camillo ti pigliano, vai e te lo fanno così, perché glielo dici che sei senza dottore, che cosa devi fare? San Camillo te lo fanno tranquillo, e so che l'hanno fatto anche altra gente, capito? Ma io sono da ottobre dell'anno scorso, mi fa fare questa visita agli occhi, non trovavo un posto. Ce n'era una a Pirfugas, ma andava a Pirfugas a fare la visita, ma sta scherzando, allora me la bago questo brinco. No, io sono andato a San Camillo, e mi hanno detto che non c'era posto, che non potevano prendere altri. Ma devi fare casino, le devi dire che sei senza dottore, come devi fare? Cioè io gli dici sono senza dottore, come devo fare? Ma avrà giudito, sono andato un video di mezz'ora in Chivi. A vedere se podia, mi ha detto che non c'era posto. Allora, non mi sa più che ho fatto, me ne sono andato. Vabbè, da un po'. Dove stiamo andando a finire, ragazzi? Cioè uno è malato e non può. E come fai per le medicine, per farti il piano terapeutico, tutte queste cose, come fai? Con la mia dottoressa ma fa tutto lì per le medicine, il piano terapeutico lo fanno su loro, gli infermieri salgono su a un medico e mettono un timbro, hai compreso? Ho capito, fate le tue visite, però te le fai dire dall'altro dottoressa le visite, si viene a fare al cuore, quella agli occhi, perché noi le dobbiamo fare ogni anno, lo sai, no? Queste visite qua voglio l'ho fatto. Avrà giudizio. Ho detto anche a un medico lì. Dice adesso stanno guardando di mettere, danne una diecina a una diecina all'altra e metterli in mezzo. Così mi ha detto. Oh, devo chiamare il cupo, devo chiamare. Ecco cos'è. Sempre devo interpellare a loro. Sai cos'è? Che se ne sono andati in pensione e non li hanno riassorbito altri, capito? Quindi sono rimasti a corto di medici. Ma dice che da gennaio ne mettevano 3 o 4, ne mettevano. No, giuro che non hanno imbultato nessuno ancora. No, questo non l'ho sentito. Ascolta, tu nulla ne sai se quell'ambulatorio della Tenorcia sta sempre funzionando. Qual è quel laboratorio? Dove si fanno le analisi? Meglio non andare in Chivi. È meglio che non vandi. Ma se andiamo in Chivi, ti arruinai Gianni di... A me mi ha fatto le mattone, ragazzi, nel braccio. Pensa a Ed e Piazzullo. A me mai, io me la trovavo subito, la vera, anche perché c'è lo sporgente, si vede. Me la trova subito, la prima me la trova. No, ma mi aveva detto che doveva trasferirsi, e non so se bisogna che ci vada, se non lo sai bisogna che ci vada io e controlli a vedere, perché se no il giorno che devo fare le analisi poi magari mi trovo male. Con via Pasubieso, Gandelli. Vado lì e faccio lì sempre. Almeno lì riesco a farle. E a me mi ha detto di non farle più dai privati, di farle a ospedale. Ma io non la giugare di andare in Chivi a farla via. Mi va di male l'acca, non posso usare, ma che qualcosa. Io seconda e fammela andare via e basta, tutto lì. Come faccio se vai a latte dolce? Vado uno dei primi, mi fanno le analisi e me ne vado, il giorno dopo torno e mi danno risposta. Io lo sto facendo in via Pasubio. Cosa va bene? Entro. Sono lì alle 7:30, alle 8 apre, sono uno, fa che sia il terzo e vado via subito. Me lo fanno e vado via subito. E non è così, ero via qua subito l'ultima volta perché mi avevano detto che colui doveva trasferirsi, quindi avevo paura che non aprisse e sono andato via qua subito. E hanno cominciato, questa qua che era incinta è passata prima di me e io ero il primo, è passata prima di me, poi un altro ha detto ma devo fare qualche cosa per il fabbismo, sì, passi lì per il fabbismo, e che ha detto scusi ma sono il primo, e non so, ma loro c'hanno la precedenza, Sì, loro c'hanno la precedenza, e vabbè, uno, due acciappi, non è sempre di acciappi, no? Quando vanno io rimango in chivi un quarto d'ora e poi mi andando. Alle 8:15 sto andando via. Tu lo sai che gli abiti c'hanno la precedenza su tutto, perché vanno a stomaco vuoto, senza mangiare, devono fare l'insulina e tutto quanto, e hanno la precedenza. Se io presento il cartello che sono diabetico, mi devono far passare per primo perché sono a stomaco vuoto e mi posso sentire male. Già lo sanno, sì, già lo sanno, però come devo dire, sa, quella è incinta, quella è quell'altro, e purtroppo sì, ma se mi vero, agita, se mi scendo poi ci rimanete male, e bisogna chiamare un medico. Ecco cos'è. No, io non ne presento mai però a fare studio, perché qui brontola, se no tu arrivi ultimo e passi primo. Tu basta che tu fai vedere il documento che sei diabetico e ti fanno passare immediatamente. Ah, guarda, io l'ultima volta che sono andato ero terzo. Hai chiamato subito. Faccio col passato, tranquillo, e così. Oh, mi ha chiamato anche il Palazzo Rosa, mi ha chiamato, dice ma signor Pino, ma lei non ci sta venendo più qua. No, anche bisogna, devo mandarvi le mail, fare quello, non devo perdere tempo così. Ma uscite male da mezzo. Dice a chiamarvi, non riesco a chiamarvi, anche perché non rispondete. Ecco cos'è. Io lì non ne avrei problemi perché ci lavora mio cognato. Ci lavora mio cognato proprio dove fanno le analisi. Non avrei problemi, ma è troppo fuori mano. Trovare parcheggio è un casino, anche lì via Pasubio è un casino a trovare parcheggio, lo dovete piazzare parcheggiare via Gorizia perché ha tutto dato pieno di macchine. Ho fatto due volte il giro, però mi serve via Gorizia la macchina. E me lo subito devo appiedi, quell'altra che mi va di avanti. No, sai cosa facevo io? Lasciavo la macchina a Santa Maria di Pisa, dove c'è quello del metro, mi pigliavo un metro, me ne farò i chivi e salivo alle 7:30, ero lì, ero, e salivo su. Sai cosa facevo? Prima però. Ma invece deve avere l'appuntamento, deve avere. Ma per avere via Pasù? No, su a coso, a Palazzo Rosa. Ah, ah. E vabbè, non so, purtroppo ha cambiato tutto. Ma il mio dottore mi ha detto di non farne più questi privati, cioè quando ci manderanno le analisi direttamente come fa l'ospedale, che si aggiorneranno, allora va bene. Ma adesso dice ogni volta dobbiamo perdere tempo per trascrivere tutte le cose che hanno scritto loro, lo dobbiamo ritrascrivere noi nel computer. Ah, dice, guarda, ma per carità, guarda, ma se avere uno scanner che te le recupi subito. Sì, infatti, è uscire. L'unica cosa per fare uno scandalo è vedere invece a che cosa, da buci buoni in appuccio. Ecco cos'è. Se mi dice qualche cosa, questa volta glielo dico, che io non ce la faccio. non posso andare lontano, poi trovo il parcheggio lontano dall'ospedale, devo camminare con l'acqua che mi fa di male, non puoi capire come mi fa male quando cammino. Sì, che sono una massa di debegosi, cazzo, non voleva, più nulla non voleva, ecco cosa è. Ah, ma io ti scendi, ti chiamo tutti quanti all'ospedale per poter fare un po' di soldi, hai capito? Ma che non prende nebbio nessuno. Ecco. Avanti. Buonasera a tutti, non so chi sia in ruota, ho sentito Torre Squalo e Gianni, già ho visto il coso prima, stavo facendo anche io roba allo scanner stampante, cioè scanner per, devo rinnovarmi l'esenzione per quelle patologie e quindi ero al computer. Ne volete sentire una? Allora io devo fare l'esame della vista generico più il campo visivo, chiamo il CUP. L'impegnativa me l'ha fatta l'autoressa, no? Quindi chiama il CUP, dice, prende appuntamento. E perché il CUP mi ha detto che per il campo visivo a Sassari, nota a Sassari, in altre città d'Italia magari lo puoi fare, a Sassari non puoi prenotare il campo visivo al CUP, che devo andare a parlare di persona in oculistica e chiedere se si può fare in altra maniera. Io so già come va a finire, che andrò in oculistica e mi diranno che se voglio prenotare l'esame devo chiamare il CUP. Sai qual è la, praticamente alla fine la cosa, che vedrai che mi dovrò pagare un esame privato di tasca mia. Sì, beh, la più sicura. Invece io ero da ottobre che stavo cercando di fare la visita a fondo succulo, che io la faccio di anno per il diabete, non la faccio di anno. E non c'era mai posto, l'ultima volta che ho telefonato dovevo andare a Pilfugas, ho detto no, io a Pilfugas non ci vado. Ma mi dice, riprovi più là. Ho provato l'altra mattina, ho avuto una canna, l'ho trovata due o tre giorni dopo lì a via Tempio, al poliambulatorio. E domani devo andare, devo fare la visita domani. La sanità sta andando peggiorando, infatti certe volte se uno può si paga l'esame di tasca se può, e se non può, vabbè, adesso vediamo se posso risolvere questa storia del campo visivo. Potevo passare da quell'altro, un periodo di macello, inizio dell'anno, rinnovi vari, rinnovi i piani terapeutici, un altro delle scatole, tutta roba burocratica, vai Tore. Rinnovi e pagamenti. Rinnovi i pagamenti, vedrai amico, andrà a finire. Vai Ettore. Così, io lo stesso, alla visita, so io che non ho fatto pagamento, 60 euro. Ora faccio un bagaglio. Purtroppo non venne altro, penso che due anni e più sono che non faccio visita oculistica. Io l'anno scorso al Policlinico 60 euro. Mi è andata bene, io dovevo fare una risonanza magnetica al cranio e tronco encefalico. Siccome i tempi di attesa erano indicibili, praticamente ho dovuto mettere le mani in saccoccia e fatta come si tocca a me, 350 euro, però subito, immediata, perché qua la situazione precipita, già. E se uno ha bisogno e non c'ha soldi, cosa fa? Muore, semplice, no? Per carità, guarda, vabbè, adesso vediamo, dai, riprendeti, io adesso ho fatto questa pausa, adesso ritorno lì a scansionare documenti e poi tramite email devo inviare a questo ufficio, questo però è per il rinnovo del codice di esenzione, capito, in modo da non pagare quei farmaci particolari salvavita, che poi è una terapia ormonale sostitutiva, e se vai a pagare quelli ti costano l'ira di Dio, non è roba normale, capito, che trovi in farmacia. Riprendi tocco, dai, bianco per me, riprendete. Aspetta, come mai tu fai il codice di esenzione e dopo io non le faccio mai, c'ho sempre lo stesso il codice. No, allora, io siccome non lo trovo, non trovo più il documento del codice d'esenzione, E dottoressa ha detto, ma la sicurezza rinnovala, tanto è gratis, cioè mandi un'email con i documenti, con questo documento mio più, fai la scansione della, come si dice, la tessera sanitaria e la carta d'identità, e casualmente lo riconfermano e sempre quello rimane. Dice, cerchi magari di non perdere documentazione, questa volta. Vabbè, quello facendo pulizia, carabiniere, non l'ho fatto di tutto. Se non ce l'ho buttato io per sbaglio lì già. Guarda, io sono un posso dire il termine, un casinista che non viene bene a dirlo. Io non sono nato ordinato, capito? Vai, Tore, bianco per me. Sì, io ma com'è, io ce l'ho, io quello lì, ce l'ho tutti dentro una busta, documento per documento, tutta la documentazione, da quando ho iniziato a essere diabetico, c'ho tutto ciò, l'esenzione. Poi ormai la dottoressa vi pensa, vi pensa a punirmi, ogni volta che vedo un mando. Io ho tutte le cartelle, c'è scritto diabetologo, cardiologo, questo, quell'altro, tutte le cartelle della documentazione. Gli tengo diratti io, no? Non so così io. Mi ci ho buttato l'altro giorno un po' di documentazione vecchia, ma di tanti anni fa, che ce l'avevo ferma, ho fatto un ridere, ne ho altri due o tre scatole da riordinare perché sono tutte scadute, cose scadute, che già c'era l'assicurazione, tutta Italia aveva l'assicurazione, dell'Alleanza Assicurazioni, che l'ho già ritirata, quindi ci ho buttato tutto. Ma io dalla cosa delle... Per diabete c'ho tutto dentro una cartella, documento per documento, piano piano. Quando me la richiedono, che cambio medico, me la richiedono, ho tutto quanto di dopo. Cosa faccio io? Se ce l'ho una cartella, ce l'ho da quando era centro diabetico, prima dove era prima il vecchio centro diabetico, non so se tu sei mai stato lì, a San Pietro. Poi l'avevano trasferito alla Stecca Bianca e poi di nuovo a San Pietro. C'è un casino, da voi torna in chi? Io quando ero con Pacifico, prima le cliniche, poi in quello blu. Da quello blu sono passati torna alle cliniche. Poi da Pacifico sono andato con Fancello. Con Fancello ero come si chiama? No. Come fanno adesso le analisi? Lì ero. Poi da lì a Rizzito. Al Palazzo Rosa. Ah, dal Palazzo Rosa sono riuscito su a Rizzito, sono riuscito. Con Fancilli. Ma in Giambardo ci hanno portato su a Rizzito, l'hanno portato su. Cioè al Palazzo Rosa. Dove c'è la Fancilli. Ciao Marco, ciao, scusa se mi sono dimenticato di salutarti. Io sono stato un periodo lì al Palazzo Rosa, qui meglio che andato. Non mi piaceva. Non si ricordava la cosa da un giorno all'altro, cazzo, questa qua. Sono andato con mia moglie e ho detto, ma questa qui cosa è dottoressa? Non si ricorda, gliel'ho ricordato mia moglie, ma guardi che... sicura, sì, certo che sono sicura. E da un giorno all'altro si ricordava la roba. Vabbè, dai. Comunque, adesso speriamo che restano lì. Adesso mi ha detto il dottore che devono mettere il cardiologo lì. Ce lo ricordi prima, quando proprio all'inizio, quando era San Pietro, proprio dove c'era la camera mortuaria di fronte, lì c'avevano tutto, c'avevano il cardiologo, c'avevano il diabetologo, c'era, si facevano le analisi, ti davano subito il responso, immediatamente ti facevano le analisi nel sangue, prima di andare il dottore sapeva già le analisi tue, le davano subito. Invece a me mi è toccato se cammino un cardiologo, a chi lo vendeva lì nel coso, nel Palazzo Rosa, lo vendeva. Lo sto facendo in via Armando Diaz, lo sto facendo. E lì è bravo, prima c'era il padre, a me mi visitava il padre, sì. adesso c'è il figlio. Ma è bravo anche il figlio, me lo dico. Ah, ma mi visita negli su alto 2 metri. È il figlio quello lì. Il figlio. E quello che c'era prima è morto adesso, è deceduto. Sai, con il di quella che mi trafronta a me. Ma infatti io andavo lì, mi ha detto, la prossima volta non c'è bisogno di andare a Cucu, venga direttamente che glielo faccio. Infatti, io adesso domani mattina devo telefonare e prenotarmi per settembre, perché lo devo fare sempre a settembre, un anno, e mi rinnova il piano terapeutico, mi rinnova, capito? Ma lo faccio a settembre, lo faccio, con loro. Allora, i piani terapeutici dovrebbero essere in automatico, quando scade uno fanno l'altro subito, capito? Non è più come prima, le lo mandano tutto le mail, capito? Sì, ma anche quello del cardiologo è che devo prendere una pastiglia e queste pastiglie nella compromissazione del sangue. E quello è il piano terapeutico che mi danno loro. Ah, è un altro, non è quello della diabetologia. Ho capito. Beh, vabbè. È tutto un casino. Prima si faceva tutto in un posto, portavi le urine, loro ti facevano le analisi dell'urina, ti prelevavano il sangue quando arrivavi. E una volta che arrivavi ti prelevavano il sangue, ti pesavano, facevano tutto loro. Facendo tu Eddy, ma invece no, ma è tutto già andando, certo, sta diventando uno schifo, sta diventando. Adesso per una cosa deve andare lì, poi l'altra cosa la brutta è che non c'è un reparto di diabetologia all'ospedale, non c'è una corsia dove ci siano diabetologi, capito? Questo ti dico, ma all'ospedale non c'è un reparto di diabetologia. Ma ci hanno buttato tutto a ricetto, ci hanno buttato. E ieri, quando stavo aspettando, è passato il dottor Pacifico, ma lei non era un me, ero. E adesso si trova senza. E cosa vuole fare io? Vedi che mi accontento così. E tu dici, ma mi rivuole, se mi rivuole mi riprenda. Così la via. Ma me l'ha fatto nudo da con chiso, certo, che mi dovrà fare, mentre mi va già prima, che entro là, mi va già, dava l'appuntamento alle 8, e poi mi si mandava a mezzo lì, ma vedo rubio con Edo. Ma no, il mio è abbastanza puntuale, addirittura l'altra volta non c'era uno, non è venuto un paziente e sono passato il primo, e ho finito il primo. La verità, per quello no, ha un carattere un po' così strano, questo è un po' duro di carattere, rispondendo sempre sulle sue, rimane. No, è che ero con Sato, mi hanno mandato con il dottor Vancello, perché ecco la Daboia a marzo l'anno scorso sono andato in pensione, boh, arrivederci, mi ha detto, non venderà più, sono senza dottore, ecco cos'è, dal 2011 che lo faccio, boh. È un casino, dovrebbe essere una cosa automatica, se manca uno che ci fosse l'altro a sostituirlo, invece non è così, facciamo sempre noi casino. E allora non è chiuso, ci siamo anche in truppi, siamo, se c'è coso se risponde di non venne, di beghi d'altro, c'era bisogno di un paese, c'era bisogno. Ce ne sono? 8:15. E non andiamo a abitati la Bastiglia. No, adesso aspetto altri 5 minuti e poi mi rabbiglio. No, il solito te l'hanno aperto per un quarto. E vabbè, io anch'io adesso fra poco mi alzo e vado a portare giù il cane. E stava tossendo come se stesse affogando. Ha tossito così, come se dovesse vomitare. Così. Se ogni tanto lo faccio per un momento, lo faccio. Questa è una cosa che mangia qualche volta gli rimane sulla gola. Certo, non lo so qua. Ah, sta, su mangiare era zuppo, era. Allora, stasera mi sono accorto che sei graffiato, che non sono documenti, ed era zuppo. Oggi ho fatto camminare un poco, e gli è passato. Oggi ho assaggiato, ho visto questo graffio, e che è andato, ci va da beffa, ci va. E gli era da graffiarci, graffio nuovo, graffio così. Ma cosa che mi sei passato in mezzo a che cosa, eppure non ce lo faccio passare io. Non lo so come. No, perché magari a volte quando zuppi calocottano di subito la zampa sotto, non sa che c'è entrata qualche spina. Una volta attesa c'era il vetro, l'ha tagliato, devo continuare il vetro, poi lo sono andato a casa, l'ho tutto fasciato, l'ho medicato, fasciato, ce l'ho passato subito, il pompastrello se l'ha tagliato. Corretto. E a volte pure c'è questo vicino a casa che lo fa cosa c'è il cane, cosa gli è stata qualcosa della zappa perché l'ho visto zoppicare. No, c'è reumatismi. Adesso vanno le pastiglie per i reumatismi perché come noi si prendono i reumatismi e zoppicano. No, quando molte volte quando c'è quella spina che si entra molte volte cammina a zoppo o a tenere sollevata e me ne avviso e gliela tolgo, allora cammina bene. Andate si attacca la spina. A caso ne è entrata una di quelle rotonde, ce ne presenti, quelle rotonde che hanno tante spine, tra un dito e l'altro, si zoppicava e gli ho detto aspetta, fermati, ha fatto la zappa. L'ho controllato, ci ho passato la mano in mezzo alle dita e mi sono bubunto. Ma cazzo cosa c'è? Ho guardato bene, ho acceso il telefonino, ho guardato bene perché era di notte e c'aveva questa spina, questa rotonda tutta piena di spine, questa pallina rotonda, non so se ce l'è presa. Ia, e se si rimuove in mezzo alle dita? Ah, non buono, quasi, a che bursa. D'estate. L'estate è fuori a sacchi, mamma mia, bisogna stare attenti a fuori a sacchi. Una volta a te sono dorato, gli è entrato nel naso, l'ho dovuto portare dal veterinario, perché sta l'ultima coltivazione, riusciva anche sangue. Ho provato a correre dal veterinario, l'ha fatto l'anestesia e con la pinza, prima ci ha messo una sonda, ha visto dove era, poi con la pinza gliel'ha tirato. Dobbiamo vedere cosa ci aveva, è un po' a sacchi. Poi l'ha fatto il coso per svegliarlo, come si è svegliato e l'ha tutturato a tutturare. Io 2 anni fa l'ho portato a togliergli il furasacco dal naso, me l'ha drummito e piano piano gliel'ha tolto. Vabbè, che ne si è dato, era tutto attuntunato, era. Certo, sono rimasto un'ora e mezzo in chivi, gli si scidava. Sì, perché la dottoressa, poi camminano barcollando quando cammina. E ti stavo dicendo, loro praticamente, specie quando tagliano l'erba, che fuori a sacchi cadono in terra, loro vanno a odorare, come aspirano, odorando se gli scienza dentro. Ma io posso dire da marea che non ce lo sto portando più quando tagliano l'erba l'estate. Ecco, perché lui appoggia il muso dentro non si gira dentro, dentro. E tira. Allora cerco di non portarlo dove c'è l'erba secca. Eppure io faccio così, però lui vuole entrare, capito? Per fare i bisogni, vuole entrare nell'erba. È abituato così. Non è facile, non appunto dove c'è l'erba non è facile, quindi cerco sempre dove c'è il punto di erba verde per fargli fare. E così sono io. Io cerco l'erba verde proprio da che non ci siano frassetti per fare il bisogno, perché lui è abituato a farla nell'erba, è abituato. Lui però è fare a marciapiede come certi cazzo, qui ci sono dei padroni maleducati, hanno lasciato una massata a vedere a casa sul marciapiede, aiucazzo. Sì che la fa nell'erba, posso anche capirti, anche se la dovessi raccogliere lo stesso, ma nell'erba non la puoi farla concire. Non succede nulla, però cazzo la marcia a piedi uno si passa, cazzo ci vuole dei bimbi. Che la sa di che per questa signora Rugani Manno ha fatto una massata e un coso la signora andando, ha detto signora vabbè, la raccoglie e sale tenga la busta, la giovane dovrà buttare, tenga la busta, se la raccolta, non devono, ecco, se ce la fanno all'erba va bene, ma caspita, è marciapiede, mi ha fatto dicere, vabbè, la raccolta, perché se non aveva il pinto se n'era andata. Sì, se frega, c'è ancora, con la massata vicino a casa, c'è ancora. Sono passata sul marciapiede, anche se da una parte non è proprio in mezzo, però uno può volersi burro in piedi, aiuto, bisogna avere un po' di educazione. Gli animali se si hanno bisogna trattarli bene per rispettare le cose, se no è inutile che ce li hai, per lasciarli così come randaggi, allora lasciare i randaggi in casa. Ce n'era uno vicino a casa che si chiamava Diana, una cagna di quelle, praticamente di quelle che vivono in strada, tutti gli davano a mangiare, abbiamo fatto la colletta per farla operare la cataratta agli occhi, adesso è morta di vecchiaia e se l'aveva presa questa signora, perché gli faceva pena lasciarla in strada, se l'aveva portata a casa, però la mattina voleva sempre uscire, non poteva stare in casa, la mattina con la zappa bussava la porta, la faceva uscire e poi tornava. Vedi, è abituata così, abituata, quando sono così. Ah, vabbè, una vicina ogni volta che passa sotto il portico, vicino al portone, deve fare la cagata con questo cagnolino. E l'ha già dentata laggiù, ma già da giù vista, ha trovato, non la raccogli. C'è la busta, certo, lei mi ha fatto vicino a rimbussare proprio. Allora le buste le devono avere loro, perché se li fermano le guardie zuffine, li chiedono la busta per raccogliere, se non ce l'hanno li mandi la busta, lo sai. Anche a me me l'ha chiesto una ragazza, però mi ha detto che se l'aveva dimenticata a casa. Mi ha detto, non è che c'è una busta che ha fatto la cacca e non posso pulire perché mi sono dimenticato, sì che te la do, poi gliel'ho data, capito? Però non è che tu devi comprare i busti all'asilo, la sua gente che si deve dare il gappresso. Infatti, ti sfida l'aggettivo, sai che le buste te le devi portare appresso, perché se ti trovano senza le buste c'è la contravenzione, non usa abbiano, ti pagliani così, se la ciappavano. Vedi che te l'aggettivo, vabbè, vabbè, se mi avuta, vuol dire che ti è dentro. Ma dai cinesi a comprare costano una cazzata, te ne danno 4 rotoli, mi pare 2 euro. Ah, io ce li ho qua, ce li ho a voglia di buste, di rotoli, di cose, vado a contenitore che è attaccata al gannau. Ma io uso proprio quelle per cani, quelle... Però ce l'ha attaccato alla pettolina, c'è un moschettone e ci ha attaccato il portabuste con le buste. Non è di quelli in plastica, è stoffa, perché quelli in plastica li perdevo sempre, si rompeva il moschettone e li perdevo. Questo fatto proprio in tela, capito? In tela lo puoi lavare e tutto. No, io ce l'ho in plastica, però non si è mai fasciato. Ce l'ho attaccato alla corda, ce l'ho attaccato. Ma non me ne è mai uscito, non si è mai rotto di cosa. Eppure si ha giù sempre di buttare appresso. Vabbè già, io ti lascio, perché sono meno 5. Ci risentiamo alle prossime. Ok, ciao, stammi bene. E ciao agli ascoltoni. Andiamo a vedere. Ciao autore, ciao. Grazie per il QSO, a domani. E ciao anche a tutti quelli che sono all'ascolto, dai. Buona serata. Ok, ciao già.